Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Pur riconoscendo specifici casi in cui la vigilanza forse poteva fare meglio, questo avveniva, come ho detto prima, in un contesto assai complesso, sia di cambiamento della normativa europea che di situazione di fragilità dell'economia. Insomma, continua naturalmente la telenovela delle banche con la commissione parlamentare d'inchiesa. Telenovela naturalmente così, in senso diciamo ironico e anche drammatico, con tutto quello che sta succedendo anche a livello di ripercussioni politiche, no? Avete sentito Padoan, il ministro dell'economia, in audizione oggi nella commissione parlamentare d'inchiesa sulle banche. Poi domani sarà sentito anche Visco, il governatore della Banca d'Italia. E poi anche Ghizzoni, il famoso Ghizzoni di Unicredit, che era stato tirato in ballo nelle indiscrezioni del libro di De Bortoli, e di lì poi tutta la bufera su Boschi. Insomma, si prosegue, ne parleremo, ci sono varie cose che bollono nella pentola della politica, ci sono anche le dichiarazioni di Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle, che sta creando un po' di polemiche. Poi lui ha rizzato il tiro sull'euro, avrebbe detto oggi che voterebbe in un eventuale referendum sull'euro, voterebbe per l'uscita, però dice questo non è l'obiettivo del nostro movimento. Allora qualcuno dice, allora non si capisce bene qual è l'intenzione. Dopodiché c'è tutta la polemica sul rientro delle spoglie dei Savoia in Italia. Poi c'è anche un lutto nella politica, è morto in un incidente l'ex ministro Matteoli. Moltissime cose insomma di cui parlare, anche di questa vicenda davvero particolare del magistrato Bellomo, che sarebbe stato accusato di abusi e molestie sulle sue allieve, facendo firmare loro per i suoi corsi un contratto particolare in cui anche parlava delle misure della gonna, della minigonna che dovevano avere. Quindi rimanete in ascolto sino alle 22 di Effetto Notte, non staccatevi neanche un minuto. Roberta Giordano sempre con voi per un'ora, e per interagire qui lo sapete, pagina Facebook di Effetto Notte, li potete scrivere i vostri commenti oppure li potete scrivere inviandoli al 349 238 6666 per sms e messaggi. Ma direi come sempre, prima di tutto, di sentire che giornata in sintesi è stata. Stati Uniti, un treno deraglia vicino Seattle e cade da un ponte, almeno 6 morti e 70 feriti. La commissione d'inchiesta sulle banche, in audizione il ministro Padoan dice: non ho autorizzato nessuno a occuparsi di Etruria e nessuno mi ha chiesto l'autorizzazione. Lutto nella politica, l'ex ministro Matteoli morto in un incidente stradale accaduto sulla via Aurelia all'altezza di Capalbio. Elezioni, Di Maio apre a possibili alleanze. Sull'euro dice: in caso di referendum voterei per l'uscita, ma non è questo il nostro obiettivo. Il caso del magistrato Bellomo, il consigliere di Stato, è indagato a Bari per presunti abusi sulle studentesse dei suoi corsi. Sospeso anche il suo collaboratore, il PM Nalin. Le polemiche sul rientro delle spoglie dei Savoia. Emanuele Filiberto li vorrebbe sepolti nel Pantheon. La comunità ebraica insorge. Grasso commenta: impossibile l'onore pubblico, ma solo pietà umana. Scienza, l'astrofisica Marika Branchesi, secondo la rivista Nature, è fra i primi 10 personaggi scientifici del 2017. Calcio, feste rovinate in casa Milan, giocatori in ritiro da domani fino a data da destinarsi. Partiamo quindi dall'incredibile incidente ferroviario avvenuto negli Stati Uniti vicino Seattle. Un treno è deragliato e alcune carrozze sono finite sulla strada statale sottostante. Ci sarebbero almeno 6 morti, una settantina di feriti. Il bilancio però è ancora incerto, e su questo saluto subito il nostro Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore degli Stati Uniti. Ciao Marco. Ciao, Marco. Buonasera. Tra l'altro, quella tratta, se non erro Marco, questa tratta Seattle-Portland era stata inaugurata proprio oggi? Sì, era il viaggio così inaugurale di una tratta ad alta velocità. L'alta velocità negli Stati Uniti è ancora molto rara. E questa tratta era, questo era il primo viaggio, il primo treno che passava su questa tratta. E tra l'altro, dopo intense polemiche da parte delle comunità. Successo qualcosa, anche Marco è rimasto risucchiato da qualche problema, vediamo se riusciamo a raggiungerlo dopo, d'altronde questi destini a volte di questi collegamenti. Adesso, mentre attendiamo di sentirlo, andiamo sulla questione banche, torniamo sulle faccende italiane. Oggi in commissione d'inchiesta parlamentare, come avete sentito all'intro, c'è stata l'audizione del ministro dell'economia Padoan, che ha riconosciuto casi di insufficiente vigilanza e a domanda diretta ha specificato di non aver autorizzato nessun altro ministro a occuparsi della crisi degli istituti. Un'audizione in crescendo quella di Padoan davanti alla commissione d'inchiesta. Prima la decisione del governo di confermare Visco alla guida di Banca Italia è stata ispirata, spiega il ministro dell'economia, essenzialmente alla continuità istituzionale. Si è voluto dare un segnale ai mercati. Certo, spiega Padoan, la vigilanza poteva essere fatta meglio, pur in un contesto di cambiamento delle norme europee e di crisi economica. Caso a parte, fa capire Padoan, le banche venete, dove la vigilanza è stata insufficiente. Ci sono casi sotto gli occhi di tutti, per esempio delle due banche venete, in cui si sono stati avvisati fenomeni che non sono spiegabili semplicemente con la gravità della crisi o il cambiamento di regime normativo. Certo, puntualizza Padoan, Banca Italia è stata ostacolata dagli istituti, quindi il capitolo Banca Etruria. Il governo ha condiviso le esigenze di commissariamento, dice Padoan, che risponde poi così a chi gli chiede degli interessamenti dei ministri Boschi e Del Rio. Non ha autorizzato nessuno, anche perché nessuno mi ha chiesto l'autorizzazione. La gestione del questioni bancarie ovviamente in capo al ministro dell'economia e delle finanze. Il ministro dell'economia difende quindi gli interventi sulle quattro banche. Saranno rimborsati ai risparmiatori più della metà dei bond. Monte dei Paschi sarà un affare per lo Stato, dice Padoan. Bene infine la strategia di riduzione dei crediti deteriorati. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E domani sarà ascoltato in audizione il presidente di Banca Italia Visco, mentre mercoledì sarà la volta dell'ex amministratore delegato di Unicredit Ghizzoni, come vi dicevo, che era appunto menzionato nel libro di De Bortoli, da dove è partita tutta la bufera sulla ex ministra Boschi. Adesso ci ricolleghiamo con Marco Valsania per questo incidente di cui vi parlavo, che è successo vicino a Seattle negli Stati Uniti. Marco, quindi dicevamo, un bilancio provvisorio, almeno 6 morti e 70 feriti, e una tratta che era stata inaugurata proprio oggi. Esatto, una tratta inaugurata proprio oggi e dopo molte polemiche, perché le comunità locali avevano protestato a lungo perché ritenevano le misure di sicurezza prese nel far passare, diciamo, questa nuova tratta inadeguate. Quindi le polemiche sicuramente aumenteranno adesso in un clima così di crisi delle infrastrutture americane che riguarda dighe, appunto, ferrovie, ponti, strade, aeroporti, e che sta diventando una sfida davvero urgente per il paese. Grazie Marco Valsania, poi aggiorneremo se ci sono altre, speriamo di no, insomma, che il bilancio sia questo, che è già pesante. Ritorniamo sulla politica italiana. Prima abbiamo parlato delle audizioni in commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche, molto critici sulle audizioni, su quello che emerge, 5 Stelle, che chiedono chiarezza. Attacca Luigi Di Maio sulle banche, attacca dopo che il PD fa quadrata attorno a Maria Elena Boschi. Il candidato Premier 5 Stelle chiede chiarezza all'area che tira. Qui le informazioni ci sono state nascoste, che la Boschi incontrava Vegas, che la Boschi andava da quello dell'Unicredit. Quando tu detieni le informazioni, o ricatti o sei ricattabile. Ecco. C'è poi la questione euro ed è scontro con Matteo Renzi. Di Maio dice in caso di referendum sulla moneta unica che voterebbe l'uscita, ma già il voto sarebbe un'estrema ratio, sottolinea il candidato 5 Stelle, perché significherebbe che l'Europa non ci ha ascoltato. Ed è il segretario Dem a questo punto ad attaccare. Stavolta Di Maio ha fatto chiarezza, bisogna ammetterlo, dice Renzi, lui voterebbe per l'uscita dall'euro. Io dico che sarebbe una follia per l'economia italiana. Altra questione è quella delle alleanze. Il movimento apre non tanto ad intese post voto quanto sui punti del programma, mentre dal PD lo stesso Renzi ammette che i Dem hanno perso 7 punti negli ultimi mesi, ma che Boschi sarà ricandidata. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E dopo naturalmente ci sarà altro spazio da dedicare alla politica, con tutti gli argomenti che vi anticipavo prima. E c'è un lutto nel mondo politico e cordoglio unanime per la scomparsa dell'ex ministro Altero Matteoli, morto oggi in un incidente stradale sulla via Aurelia. Se n'è andato in uno scontro frontale sull'Aurelia, vicino a Capalbio, a 77 anni. Altero Matteoli, un missino convinto negli anni 70-80, poi segretario del Partito della Toscana, consigliere comunale provinciale a Livorno per 4 legislature. Il salto della sua carriera politica se la ricostruisce proprio negli anni in cui il vecchio movimento sociale viene messo da parte per confluire nel progetto di Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini nel 94, quando la vecchia destra si incrocia con un'anima più moderata e neocentrista. Da quel momento per Matteoli inizia la scalata degli incarichi.